Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Come ogni domenica, vi salutano affettuosamente Gesi e Antonio. Allora, Antonio, questa settimana hanno detto che ci sarà la coda dell'inverno. Bah, non c'è male. Noi aspettiamo impavidi senza alcun problema. Vabbè. E diamo intanto un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e il numero di telefono per consigli, proposte, suggerimenti ed altro che è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche per i nostri amici tecnologici che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto al nostro regista. Beh, certo, quello non manca mai. Certamente. Bene, stasera avremo un ospite virtuale che... penso che tutti voi lo conosciate ormai, quelli che seguono la nostra trasmissione, la signora Franca Turchetto. Però prima ci ascoltiamo una canzone e siccome andremo a Venezia ci ascoltiamo una canzone dedicata a Venezia, interpretata da Aldo Donà, un cantante degli anni, sì, possiamo dirlo, degli anni 40, che canta Venezia, la luna e tu. Sul mar le gondole, lacide tra i sogni d'or, ed ogni gondolier con nostalgia sospira la canzone sua d'amor. Venezia, la luna è tu, stanotte questo cuore sognando aspetterà. Venezia, la luna è tu, sulla laguna l'amor ti avvincerà. Tra un sussurrar di dolci cantilene, coi baci ti dirò ti voglio bene. Venezia, la luna è tu, è questo il grande sogno che non si scorda più. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono la signora Franca Turchetto. Franca? Sì, pronto. Ciao. Ciao Franca. Ciao. Buonasera. Ciao. Antonio, buonasera a tutti. E bentornata ancora con noi. Grazie a voi altri che mi invite. Ma sempre volentieri. Molto, sempre molto. Con gioia, e sai? Sono sempre qua con felicità e con gioia. Bene. Franca, stasera di che cosa ci parlerai? Stasera... do tre robette se io affermo. Beh, insomma... ah, volevo dare un piccolo accenno sulla giornata di venerdì 8 marzo, la giornata internazionale della donna e non della festa, E dopo parleremo dell'ultima donna di Gabriele D'Annunzio. La Luisa Baccara. Un piccolo accenno al grande Vate. Sì. Ma tanto quanto. Sì. Ecco, e mi volevo fare un gran saluto a tutti la redazione e a tutti gli ospiti qui che siete venuti e qui che venerà. E un grazie a tutti quanti. E grazie a te. Perché grazie mi coimparo che dico grazie a tutti. Noi diciamo grazie a te. Ecco, ascolta Desi, tanti anni fa ho scritto una poesia dedicata a donna. Bene. Niente di particolare, donna come simbolo, né per festa e appunto è intitolata, facciamo presto, è intitolata Donna. Bene. Donna, chi ti uguaglia? Sei stata creata per divagare l'uomo dal suo Eden naturale e nel donarti hai concepito l'amore. Donna, astuta creatura, tentatrice, donna, malia d'amore, covo di voluttà segrete, avida, fredda donna, dolce donna, da te si nasce e per te si muore, sconvolgi la natura col sentimento fatale e quando il tuo corpo accendi di desiderio, sai quanto si ti possa amare. Prostituisci la tua pelle indossando carezze di seta, ondeggi di luce profana quando il pizzo o il lame ti accompagna. Profumo di peccato è il tuo bianco seno scollato, dove le perle d'oriente e i cristalli di mare riposano sopra il tuo respiro. Io ti guardo, spasimo, sospiro, donna, donna, madre, amante, amica, donna, mi nasce dalle labbra questa mistica parola, donna, amore, donna, passione, donna, vita. Bellissima, ma quante cose belle che ha questa donna. Donna, che forse l'uomo non le conosce nemmeno. Ma se l'uomo che conosce la donna quasi così. Comunque bella, ecco, proprio indovinata, sì, io penso. Bene, grazie. Bene, e complimenti sempre. Grazie, adesso un piccolo accenno, ma tanto piccolo, su sta festa internazionale della donna che ha radici, insomma, non tanto profonde, ma insomma, e allora io adesso la leggo in italiano. Nel nostro paese la giornata internazionale della donna si è celebrata regolarmente soltanto dal 1945 per iniziativa dell'Unione Donne Italiane di ispirazione comunista e socialista, che l'8 di marzo 1945 si riunirono nella Sala Grande del Liceo Visconti a Roma, insieme con le cattoliche del Centro Italiano Femminile, con vedove di caduti, partigiani e sindacaliste. Tutte insieme approvarono un ordine del giorno inviato a Londra, dove le rappresentanze di 20 nazioni riunite alla Albert Hall per celebrare la giornata internazionale delle donne e approvarono una carta della donna in cui si chiedeva il diritto al lavoro in tutte le industrie, la parità salariale e la possibilità di accedere ai posti direttivi e di partecipare alla vita nazionale e internazionale. Ecco. Bene, bene. Ecco, questo è dopo il discorso di 100 anni fa, nel 1813, mi pare che... Sì, sì, no, 1945. Sì, questo sì, ma la vera tragedia è successa, mi pare, nel 1913? No, 1908 in America. 1908, ricordo, sì, quello delle donne bruciate, sì, sì, in America. Sì. Nella fabbrica, sì. Prego, è il 129 nel 1908 che sarebbero bruciate, però dicono che uno sciopero di lavoratrici tessili è avvenuto a New York nel 1857, ancora prima, ancora prima. E represso brutalmente dalla polizia. E dopo c'è questo racconto. Sì, sì, beh, certo, certo. Fermiamo qua. Va sì, bene. Ecco. Allora proseguiamo con adesso le nostre donne. Nostre donne veneziane. Ecco, appunto, dato che sei una donna veneziana, uh-huh, parliamo insomma di questa signora. Della però Lisa. Prima un piccolo puntino, un punto e virgola su e capo. Sul vate. Dunque lui era un uomo piccolo. Brutto. Nervoso. Strimizzito, viso supegaga, da avuto le rughe. Sai che se quel DNA che i visi de volte viene tutti rugosi. Esatto, che non serve servirci, se proprio il DNA che fa. E che aveva l'aspetto di un personaggio della commedia dell'arte, un buffone insomma. Sì, sì. E nonostante tutto? Sì, aria furbesca, brutto, ma pieno di energia, aveva un naso grande, però in compenso parlava bene il francese, perché già era perfetto nel cernire parole. Bene. E aveva quella studia. Già era antipatico, seducente e amabilissimo. Beh, insomma, sono tre cose che... Sì. Non so, antipatico, sì, seducente, amabile, beh, non corrisponde. Difficile trovarle insieme, ecco. Sì, sì. Che posto, aspetta che non dica brutte parole, sto furbone è che aveva delle donne che era statua della libertà. Infatti, è questo che fa, che fa meraviglia, diciamo. Ecco. Allora, el nasce il 12 marzo del 1863 a Pescara. Sì, difatti ha scritto anche le novelle della Pescara. Sì. Esatto. Ne a casa di via Montonier, che adesso è consacrata a sua memoria. Sì. E appunto, è nasce su sta casa, è figlio illegittimo di Francesco Paolo Rapagnetta. E dal Rapagnetta e di Luisa de Benedictis, e sua mamma e sua madre della madre è il primo dei maschi, dopo che è nato una sorella Antonia, un'altra Elena e in ultima Ernesto e Antonio. Mamma mia quanti. Eh sì, che hanno avuto abbastanza. I anni al momento diremo della sua nascita fatta Italia da quei successivi all'annessione dell'Abruzzo al Regno d'Italia. E Gabri viveva all'ombra del suo padre, perché era un violento, non violento, un uomo diremmo forte, autoritario, ecco, sì, non violento. Sì. Un padre padrone. Padre padrone. Sì, ecco, disattento e anche era, diremmo, succube della gelosia di sua mamma, che aveva un controllo severo in Caea. Oh, e sì, è sempre quello il discorso, che quando che uno nasce, viene educato con questo genere... diremmo di severità, certo, la vita diventa severa, un caeo, no? Allora, biografia... Ma verso di lui no, però. Vabbè. Sta biografia di Gabriele è a sede una complessità abbastanza esagerata, perché è una combinata di tutti i colori. E tutta la sua vita viene divisa in diversi episodi, praticamente. Ora mettiamo in primo con tanta fantasia e a volte anche disgustose avventure, sia in amor che era di una sessualità esagerata, e sia nell'espressione perversa del suo linguaggio, anche se giusto dal momento che io appunto chiamava robe per nome e cognome. Sì, sì, d'accordo. Praticamente aveva questo linguaggio, diremo, non so se si può discurire, non so. Non può darsi. Elzera, insomma, dai, Elzera per un sindaco. E il suo secondo viver era un rapporto, ecco il contrasto, era un rapporto appassionato, con dialoghi, amicizie, niente manco, con persone di gran valore, perché io aveva poetici, aveva uomini intellettuali, aveva cantanti, aveva poeti, ma che ne aveva di tutte le sorti, perciò era anche ambiguo. Era una natura un po' complessa. Era complessa, perché sì, potete dire, io praticamente aveva... Non mancava mai né sotto la giornaliera, diremo, artisti, poeti come Carducci, Pascoli, Mascagni, Puccini, Debussy. Un seduttore. Toscanini, De Amicis, Giacosa, Bares, Proust francese. Addirittura. E tanti altri. Poi entra in scena, io, con la sua personalità, diremo, quella È Super Gabri, che vive la sua vita inimitabile come compositore di numerose opere letterarie. Ecco un altro lato bello. Beh, sì, perché... Ma lui era un genio e nel suo contenuto filosofico e fantasioso, inventivo, donne che hanno avuto una squadra di tutte età, che sarebbe assai lungo nominarle una per una, dal momento che come mi, quaretta, più de do fisse non zero a conoscenza. E tutte state mettiamo dentro una scatola in cassa del comò e assiamo a che dorma. Anche la Leonora Duse, no? Anche ella, si mettiamo in cassa del comò. Era che aveva massa donne, che era bella, famose e tutte passate per sua mamma, donne alte di statura, imponenti di portamento, che vivesse era un annetto piccoletto e che aveva sta fortuna di farli incocaire, cosa che faceva? non si sa. E Gabri passava da un'attività a un'altra con disinvoltura e frequentava redazione di giornali, studi di artisti, ma anche case di strossini. Ah. E amicizie con gente intrigante e anche imbrogiona. Aspetta Franca, sì, che sì, ci ascoltiamo una seconda canzone. Sì, con io ho finito. Allora, quando dico che ti amo... Go caro. Questa volta è cantata da Anna Rita Spinaci. È la pura sacrosanta verità. Fino a ieri sono stata una che si era sempre divertita e niente più. Adesso no, e no, non sono più così. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Adesso no, e no, non sono più così. Di nuovo in studio con la nostra Franca. Ecco, allora adesso parliamo un fiantin di Abbaccara. Sta donna innamorata, matta, cotta, l'ultima donna di D'Annunzio. Questa è una piccola storia d'amor parea, ma solo una storia pariù. Perché io niente da fare. Allora, l'amor di sta donna se sta un amor diverso, perché proprio nessuna dei suoi amanti lo amava veramente con l'intenzione sua, perché ella lo amava in tutte le maniere che se può amare una persona, nel bene, nel male, né a cattiveria, né a bontà, né a gentilezza, né... Ti ha capito? Non vedeva i difetti, dai. No, assolutamente niente. E nessuna donna lo ama con tanta rassegnata dignità. e con tanto spirito di sacrificio. Infatti, tutta la gente, ancora adesso, anche i manco interessai che non ha mai letto un verso del poeta come me, ciò mi dico la verità, non... Ma neanche la pioggia nel pineto, non hai letto? Certo. Prego? La pioggia nel pineto. Beh, qualche poesia, ma storia sua, perché c'è sta un uomo, a parte la cultura che aveva, tutte le belle robe, c'è sta un uomo poco, che non c'era neanche mai, non sta fermo dove che c'era, perciò faceva di spostamento, andava da un capo alto del mondo, che insomma, a ese la sua storia, insomma, non ho testa da storia. Inseguito dai creditori anche. No, massa, dai. C'era anche un fisico, diremo, essendo che era brutto e picco, anche un fisico forte per tutte le attività, e essere anche a contatto con tutte le persone importanti, specialmente i politici dell'epoca. Pensa un po'. No, non ha trovato nessuno che ho fatto fuori, ecco, come si fa adesso. Esatto. Dai, capito. Allora, sta Luisa, era una veneziana? Sì, allora dice, no, che come me non ha mai letto un verso di sto poeta, e se neanche conoscenza dell'incontenibile erotismo di sto uomo, ma tantissimi addirittura, oltre che quelli che non sa tutte queste robe, non ha neanche mai sentito missionare a Luisa Baccara, come me. L'opposto invece di Leonora Duse, esatto, che non ha mai rinunciato a essere una gran artista, anzi al contrario, perché anche a essa si è sempre vantata della sua gloria, della sua bellezza, della sua bravura, per amor di Dio, non so quanto bea che c'era, se c'era una bellezza, diremmo, di quella da far colpo, una bellezza, non so, ad ogni modo, insomma, ella si dava da fare da essere Leonora, ecco, che invece a Baccara... Baccara era più semplice. Era più semplice. Dunque, invece, è a Baccara, per D'Annunzio, e ha rinunciato invece alla sua gran carriera di pianista. Perché sì, perché era una gran pianista. E faceva pianista. Sì, sì. Eppure, diremo, gli esordi di sta Baccara ha avuto successi lusinghieri. Pensite che il suo primo concerto lo ha fatto al Teatro de Murat a Venezia, che mi non so che teatro che sia. Nel 1912 non ero nata ancora. Ma neanche noi. Ecco, e lo ha fatto sto primo... O sarà sta la solita puteta che suonava il pianoforte. Restava tenerezza. Ecco, e aveva solo 11 anni. Pensa. Per quello che ti dico, aveva fatto che note che insegni putei i primi anni. Sì, sì. E in seguito, invece, ha avuto modo di esibirsi in due brani musicali nell'intervallo del film Il padrone delle ferriere. Ah, però. Il padrone delle ferriere di Giorgio Ne. Ecco, e ha avuto due brani musicali nell'intervallo, e stai su, insomma, Dea, perciò ti vedi. Sì, sì, ecco, quando che conosce Gabri e vive un periodo di successi, sempre come pianista, come pianista, considerando sì, che tra il 15 e il 18 che resta anche la guerra mondiale, no? Sì, lui era in guerra. Era in guerra, perciò... Sì. E che c'era la ristrettezza di queste robe, e ora ne assaia di Benedetto Marceo a Venezia, a Palazzo Pisani a Venezia, e il comando dell'epoca che comandava di me piazza, che aveva organizzato una serie di concerti per dargli un fiato di conforto ai rimanenza dei veneziani che stai in città, perché si stai tutti richiamati alle armi. Tra gli artisti del Pestrigio, appunto, che c'era sta Baccara, ed era più giovane e tosa del momento. Pensa. E no, ancora pronta, diremo, a celebrità che ha avuto, ma che ne ha proseguito, perché poteva come pianista a diventare importante. Avere sì una buona... Allora, un giornalista dell'epoca scrive su un articolo che la giovanissima pianista veneziana era stata prima della guerra e a maggior rivelazione del conservatorio, perciò aveva un gran talento, sì, del conservatorio, con buon principio e una carriera concertistica, questa della stima che aveva ricevuto. Finì la guerra nel 19, l'anno che scomincia la sua avventura a Fiume con lui, lo conosce come comandante. E era uno degli epiteti che gli si dava, ti sa che lui era quello. Sì, sì, ma lui andava, sì, volava anche gli aerei. Sì, sì, beh, c'era la persona. E lo ha conosciuto a casa di una donna natosa che si chiamava Venturina. ed era un altro nome che Hugo dava all'ultima delle sue conquiste del momento, e si chiamava Olga Brunel-Levy. Quindi insomma ogni donna che era l'ultima per lui si chiamava Venturina. Sì, questa è, però ecco, la chiamava Venturina, sì, no? Perché sì, era un'avventura, no? Certo. Ecco, Venturina, da qua sta baccara ed era stata invitata per un po' fare un po' di musica, e quasi qua che conosce Gabri, insomma, che si accorge di alla tende occio e fa anche il gaiante, insomma, che aveva fatto qualche complimento e che scrive qualche letterina, che manda fiori, che fa dei gaetti, insomma. E non c'era Bea, proprio da dire, non aveva l'attrazione fisica come la Leonora D'Uso, come lui, e non poteva dal lato fisico contentarlo, diremo, ai suoi avance, ma a suo vantaggio la fama del pianista che serviva come scudo, sì. Anche quando chiamata nella casetta rossa a Venezia, che dopo che un periodo che aveva chiamata, per sollevare quella musica e sofferenze di Yuko, c'era di stare senza vista di un occhio. Ho capito. Più la chiamata a Venezia. Sì, e sì, per fare un po' da infermiera. Per fare da infermiera e anche intrattenimento. Ho capito, sì, sì. Dunque, a Fiume, andiamo a Fiume, dove Chea si impegna sul serio. Prima di tutto facendo il mestiere di musicista, come che ho detto prima, e praticamente offriva concerti, ma più impegnata col suo uomo, facendo quintesenza da efficace segretaria, e gli piaceva meglio seguirlo. Sì, sì. In quel senso là, come segretaria, come segretaria, e che bastava stare vicino, sì, vedi, sì, quanti amori diversi che sì. Sì, perché parliamo magari in casa di altre donne che, sì, ho capito, schiava, umiliata, tutto quanto, ma dopo un momento di ribellione e non lo ha mai avuto in pratica. Una donna sottomessa, forse, però. Sì, ma sottomessa, diremmo, senza lamentarsi. Sì, sì. Di quello, perché tipo lei è sottomessa, obbligata. Volontariamente, ecco, in questo giusto, caso. Tipo lei è obbligata, ma in pratica era consacrata a quello. Sì, sì. Qui è la volta passata e si aveva consacrato a Dio, il suo amore era per te. E questa si è consacrata ad Annunzio. Ecco, allora, e la sua vita è appena cominciata, e per 79 anni, cioè 19 anni, fino alla morte di Gabri, che io si sta ciappata una crisi di tenerezza, e l'ha sempre questa vicina però. E se è vero che dopo qualche anno è il principio a trattarla come sua moglie. Dal servizio dell'unità è cominciato a trattarla un fianco in mezzo. Molto probabilmente si è accorto quanto lei era utile in sostanza. Sì, e di fatto sulle buste d'etere che Hugo scriveva, cioè l'indirizzo, metteva a donna Luisa D'Annunzio. Ah, ma anche il nome? Sì, sì, sì. Però l'umiliazione che subiva era tantissime. E si sta calcolando che in circa 20 anni scarsi di convivenza Hugo avesse avuto una centinaia di donne. Per non perdere l'abitudine. No, vada, è una roba incredibile. Ma ormai lei si era abituata e per lei era una cosa normale ormai. Sì, e tutte queste donne passate per il Vittoriale. Sì. E la vita del Vittoriale di Abaccara non è che sia stato un continuo piacere, e lo dimostra i vari spostamenti da parte di Yu, che quando non la voleva fra i pie, e ora la mandava da una parte, la mandava da un'altra, perché aveva ospiti particolari che non gli interessavano, non so, insomma, e spariva, però e a Quaretta e tornava. Sempre. E tornava, e cioè non voleva forse, o andava via per non sentirsi a disagio. Sì, sì. Perché sentiva il disagio che lui aveva davanti agli ospiti. Però esiste un certo architetto che ha preteso addirittura che la mandasse via, per di più la mandava via per presenza importuna di un'ambigua cameriera che lui la chiamava Alice. Ah. E sta cameriera era ancora in condizione di impissare i sensi in debuie del gran vate. Sì, però sta baccara, insomma, restava e andava, ma tornava sempre, perché Gabri, con tutti i suoi difetti, era sempre nei suoi pensieri. e che passava da serva e che ustrava i mobili e che spoverava tutte i luoghi dove che io teneva, cioè tutti i luoghi dove che io aveva sti proprio obiti. Un grande amore, sì, sì, sì, al quale io non credo. E io la teneva come una donna ombra, sì, sì, mi faceva comodo. Sì, sì, sì. Mi aragona una fotografia di ella che si può areta e papà finisce nocciata per terra qui come su un tabuin. E ha una fotografia di lui e se con pene piccolo piccolo piccolo che ha che furbisce tutto il bordo della cornice. Sì, sì, sono quelle una cosa di dedizione, un caso di dedizione assoluta proprio. Sì, perché una dedizione così che duri più di 20 anni, quasi 20 anni, insomma, non è tanto facile trovare. Allora, Luisella, perché dopo ella ha cominciato anche a capire che era di troppo, che era disagio, ora cominciava a sentire il peso di che indifferenza, lo sentiva anche se non lo diceva, sì, sì, beh. Però che scriveva qualche eterina che metteva sul banco del lavoro, ma che metteva una eterina e io eseva, ora che dice su una eterina senza data e si esprime così e che scrive: mio caro Ariel, perché lo chiamava Ariel, forse perché svoava con l'aeroplano. Sì, infatti volava, sì. E a tua officina sei in ordine, cioè officina era una stanza proprio chiamata officina dove che io magari... Aveva tutte le sue cose. Aveva tutte le sue robe, magari che avrà avuto anche una specie di ufficio, non lo so, insomma la chiamava officina. Però aveva un doppio senso sta frase. Ed era: tua officina sei in ordine e ti aspetta i candidissimi fiori. Sei fiori? O altro. Non si sa. Allora, fiori bianchi per darti il benvenuo. Ah. E continua. Go pareccia tutto per la coesione. Vado a messa e torno presto. I miei brassi non mi do dopo la fatica di Jerry che ha gannettato tutta la casa. Sì. Anzi, fai se contenti, guardati. Ma pensa un po'. Oh, ma te ne rendi conto? No, guarda, sono tipi di amore che io non capisco. Sì, non lo so, però sì. Fai se contenti. Sì. Te baso, Luisella. Perché io sua mamma la chiamava Luisella, perché è andata via di casa a un certo punto. E ora, ecco cosa che piaceva a quel concentrato de mastro italiano che era Ariel. Non mostrava né riconoscenza, né gratitudine e purtroppo tutto che era dovuto. Ma no, sì, sono quei tipi che tutto è dovuto. E ora Ea che scrive ancora. Ea che scrive, piccolo, go pensa tanto a tia che dice, ma non so tranquilla, ma so fa che non ti sei tranquillo. Forse se solo è mia presenza che ti rende triste. E resta a te la decisione. Preferisco a far mettermi da parte piuttosto che esserti de peso. Cioè, è anche questa... Beh, certo, è anche... sta anche... No, è una umiliazione. Ma certo, sa, appunto, che... sa anche umiliarsi. Ma tanto umiliarsi, senza ribellione, che magari... Ecco per cosa che adesso succede certe robe sui famiglie. Se tocca una roba così, una donna moderna, che cassaggia una borsa di acqua. Femminismo, eccetera, ecco. Allora, ora sempre ella dice, quando non che so, e la tua giornata passa, ma forse non ti tieni corsi, che partia è più curta. Anche questa riflessione, anche questa umiliazione, no? E fa go portare rose e se partì e domando perdono se forse te so di peso. Beh, insomma, anche troppo, però sì, adesso è stata anche una esasperazione un po' areta, tipo che masochistico sì, ma che angoscia che ha avuto anche dentro di ella, perché per umiliarsi così. E la roba che dice ancora, non che si sta risposta a questa lettera, no? Sì. Ma che se un'altra lettera destinata a Gabri, sempre dea, e ora che scrive, mio Ariel, non aspettavo mai fa un telegramma così duro e umiliante. Io non che ha telefonato, che manda un telegramma. Sì, anche perché allora telefonare, sì, penso. E ora che dice, perché telegrafarmi così? Perché nell'ufficio de Gardone se sappia che non ti gradisce il mio ritorno e perché sia considerata a pari di un servo da minacciare? Questo è troppo, questo è masochismo, una conclusione proprio, sì, una conclusione amara. Sì, ma ti vedi di volte, Fiori, vedi quando che robe magari se sa così per sentito dire, non ti che fa neanche a caso. Ma adesso che se venire a conoscenza di queste piccole biografie, tu c'hai di qua idea, se diremo così una storia che è anche di una sensibilità straordinaria. Sì, è anche di una... Anche di un grande masochismo, sì, a mio avviso. Sì, ecco. Ci fermiamo un attimo, sì, Franca. Sì, ecco, e ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è cantata dai Cugini di Campagna, meravigliosamente. Ed eccoci di nuovo in studio per un'altra tranche di questi racconti della nostra amica Franca. Franca? Sì, sono qua. Ascolta, quando che poco prima ho detto che una volta tornata al Vittorial, insomma, la trascurava e si sentiva come una serva, tutto questo è successo per un particolare che era avvenuto tempo prima. Mm-hmm. Praticamente sto particolare qua è il Seria Sta descritto, no, chiamata Yu, è svolo dell'arcangelo, perché Yu, è un fatto curioso, bio che lo dica, sì, sì. Yu praticamente si trovava sulla sala della musica, e era in pigiama, in savate, che era a baccara, e anche a sua sorella Yolanda, perché sua sorella faceva la violinista, era una sorella, perciò che era sto piccolo concertino. Famiglia, no? Di musicisti. Sì. E pareria che fosse stanca sta a che aspetta che non mi gaia a Alice. alla cameriera. È nuova cameriera, sì, che sì. Dopo è. Cosa è successo? Che stava a ascoltare la bacara che suonava e io c'era posà a stipite del balcone, cioè sulla ringhiera. Sì. Sto sul balcone o sulla piastra di sto balcone. Ed era in pigiama. A un certo punto è successo, insomma, che si è cascato. Ecco l'arcangelo, quindi. Ecco il volo dell'arcangelo. E si è cascato perché gli suppone, perché che si sta tre... Tre esposizioni e nessuna dei tre, insomma, che ha concluso giusto, e andai proprio per esclusione. E lui dice, o che se sta è a Baccara, a spenserlo, perché io forse devo fargli idea avanza su Sorea. Questa è la prima, sì. Era prima. O forse lo ha spento per difendere su Sorea dai manasseon che di E qua che è un mistero. Non si sa, e per la via che da sta cascata, insomma, se l'avesse fatto anche abbastanza male. E lì che ha perso un occhio, no? No, l'occhio lo ha perso in guerra. In guerra. Si sta gattappando una pacca sul viso, con l'occhio tu me fai, insomma, allora. Cosa è che succede? Che dopo tante versioni, gli pensa che sto colpo fatale sarebbe stata un'azione involontaria ma determinante appunto di qualche dun, e non potrei conclude che non poteva essere stata che una dei Baccara, ma Ea, proprio Ea, lei, che sì. Per geologia o forse per salvare, per tutelare a Sorea, e qua non è fuori. Da quel momento è a Baccara, perché dopo se intervenivo su Mugger con Sofioi, e che cadeva colpa Ea, no? Cioè. Invece io a mandarla via, e invece non è stato possibile, io a mandare via la sua famiglia, e se che tenne i due sorelle e anche a Elis, no? Allora io però da quel momento la come tenia prigioniera dentro, e se anche ha cominciato a trattarla da serva, la diremmo esclusa dalla sua vita immaginata, sì, l'ha confinata proprio in mansione di padrona di casa, sì, ma l'ha esclusa dalla sua intimità, dove che invece al suo posto suo ha messo Elis e un gran numero di badesse, perché io e sue donne le chiamava badesse, de passaggio, quasi in disprezzo, è ripudiata amante. Ecco per cosa che Poareta e dopo si ha sacrificato. Ma lei logicamente però ha sempre sopportato. Sì, lo ha sopportato. Per un lungo periodo. Insomma, persino sopra il balcone se cascaio, perché dopo, ti vedi, quando che io, non so se si sta messo in ospedale o si ha cura a casa, dopo poco tempo tutti i segni di che è ferita e ne che c'era neanche più, perciò non c'era neanche tanto grave, sì, la roba, appunto, avrebbe avuto un mancamento, sì. Insomma, di modo... No? E che ha fatto svolo dell'arcangelo, insomma. D'Annunzio, vabbè, insomma. Allora, torniamo in drio ora, sì? Dopo questo particolare. Ea lo ha seguito anche a Fiume, a Baccara. Sì. Perché sperava in un matrimonio, addirittura. Visto che nella città di Dalmassia si usava il divorzio. Ah, c'era già e invece, divorzio. Anche la stampa del giornale dell'epoca, chiamava a Baccara e amorosa D'Annunzio, la chiamava somorosa, sì, sì. Però il divorzio tra il poeta e suo moderno esisteva, e il pianista finì il ruolo di tappabusi, non che restava altro che scondersi all'ombra, niente a dimandà, niente a gabuo, paga di ricordare di essere stata desmentegrata proprio io, che era stata la prima a correre il poeta, trova morto nel suo studio. Ah, quindi è morto, ecco. Improvvisamente lui? Sì, è morto da... ha fatto una morigia cerebrale. Comunque lei l'ha seguito fino alla morte? Sempre, è stata ella che lo ha... e qua insomma adesso andiamo verso la fine. L'unica donna in sostanza l'unica che donna. L'ha seguito fino alla fine? Sì. È stata ella prima core, vicino di lui, insomma, che è morto il primo marzo. Era che forse Yuga aveva, se è dell'833, è morto nel 938, che aveva quasi 80 anni. No. Del 69 doveva essere, 1869. Nel 38 è morto. Esatto. Ecco. E è nato... Nel 69. Se non ricordo 63, male, amico. O 63, insomma, aveva settantina. Sì, sì, esatto. Allora, ai funerali d'estato, sia religiosi, d'estate religiosi del poeta, È il presidente del Consiglio, è il duce del fascismo Benito Mussolini. Sì. Che fa le condoglianze a Maria Arduin de Galles, sua moglie vera, insomma. Sì, principessa di Montenevoso, sua moglie. Mai divorziata, mai separata, elegantemente vestita da testa ai piedi nero e a seguire imponente a vara insieme ai fiori Maria, Veniero e Gabriellina o Gabriellino, non so. A nessun però di presenti che passava per mente che quelle condoglianze che aspettava proprio a Vacara. L'anzo muto del Vittoriale. Invece? Non era questo essere alla prima veggia funebre, nella sostanza di Aleda, cioè sto palazzo, sto coso vittoriale che aveva 100 stanze. Per esempio questa qua di Aleda, era dove che c'era Aleda, il ritratto di Aleda, il cigno, ecco, era Aleda, che c'era massa gerarchi dentro. E manco ancora in quella più importante, un'altra stanza è priora, perché era più grande, qui era piena di stendardi, gazzardetti, che era presentai e presidue in tante occasioni politiche, pensi cosa che chiedera de barababà. L'onore di abitare a priora a Ea, era un'altra stanza, chiamata a priora, sarà sì. Stata, non so, la più grande, la più importante, non so, era dovuto a Baccara dal fatto che poteva suonare, che chiedera pianoforte, che era di Litz. Ah, ecco, pensa un po' al pianoforte di Liszt. Sì, sì, nella sala della musica. E quelle musiche che ad Annunzio pareva che avesse un bisogno fisico pari, diceva io, ai suoi impulsi sensuali. Ecco, sì, un artista tutto tondo, insomma. Sì, sì, appunto, che piaceva Liszt, insomma. Sì, sì, insomma, che piaceva, sì. Piaceva la musica, gli piaceva le donne, gli piaceva mare, piaceva anche mangiare e bere, non si ecco. Sa. Ecco, allora, non è stata l'unica donna amata, o meglio dire usata, perché gli altri passava dea, ma ella restava sempre a disposizione con la sua ansia, con il suo sacrificio, sopportare i tradimenti e umiliazioni. Un'ancella praticamente. È un'ancella proprio. Tanto probabilmente ci aveva fatto l'abitudine anche perché, perché non puoi soffrire per 20 anni in quella maniera lì. Cioè 20 anni cade più forse. E appunto torniamo al discorso di prima che non era bea dal lato fisico, forse ne sapeva neanche a far quello che io, che lui pretendeva. Certo. Cioè, a suo vantaggio che c'era appunto la fama che era pianista e che era chiamata dappertutto. E appena morto io e a vive tra mesi i suoi ricordi con una misera pensioncina ricavata dai sion privati che faceva il pianoforte e è andata avanti ben 47 anni dopo che è morto. Porca miseria, però, 47 sì, anni. 47 anni. Nonostante e l'usura della relazione, sì, diciamo. Sì, sì. Cioè, quindi quando è morto lui era ancora giovanissimo. Era ancora giovane, sì perché se l'aveva conosciuta Tosetta, era piccoletta, insomma, quella conosciuta, era proprio giovane. E ora che si è stati, vedi, se riparla di Abacara, tornando sempre a biografie, sì. Dopo un lungo silenzio, fin quando non vi è ancora una sua prima biografia, scritta da una certa Antonella Federici, che mette fuori dal seminato, che la mette fuori col sottotitolo, è un musicista. Ha scritto un libro con un musicista. O meglio ancora, gli dice che se lo avessi intitolato se lo avessi era mezzo che lo avessi sentito A col titolo di pianista. Sì, beh, insomma. Musicista. Però sta autrice gli dice che non è che dà tanta diremo preferenza a scelta di Abacara. Perché non si è mai di Bea, non si è mai difeso. Cioè, secondo lei? Secondo ella sì, e poteva essere più furba più come che è stata a Alice. La cameriera. No, Eddie sta più furba, no? Perché a Baccara aveva la possibilità di capire l'arte, aveva un sentimento e anche di poetica si intendeva. E un gran uomo ormai attanagliato al sfacciaio di vecchiaia, insomma, poteva fare di più. Sì, sì, poteva approfittarne un pochino. Sì, appunto. Invece era vissuto la povera donna, fedelissima, e che pochi momenti di amore vissui, che era vissuto a Fiume, mi sarebbe mai consentito di mettere in piazza qualsiasi notizia che la potesse denigrare, cioè non poteva di niente, cioè è che dà l'illusione a chi che conosceva di essere amata. Perché certo. Se lei che diceva mi faccio questo e subisso, si metteva in... Sì, si metteva in sudditanza anche metteva, di fronte agli altri, sì, perché... E ora sta biografa dice, dal momento che non ha mai avuto il coraggio di scrivere qualcosa, tanto manco a nessun giornalista non che racconta niente di niente, perciò non si può giudicarla. Sì, a parte che giudicare non è... tanto facile, Lo so, anche perché senza elementi come questo perché caso. Appunto dice che da parte perché sta baccara non ha mai fatto scrivere articoli e tanto manco biografie. Ormai lei viveva in funzione di questo uomo. Sì, ma sta giornalista diremo che ha avuto questo atto di critica nel senso che non ha mai esposto quello che probabilmente poteva essere in caso difesa. Il proprio punto di vista. Esatto. Sì, perché già. Perché dice, va bene che a fine sto nomino, perché io addirittura la chiamava anche Smirka, la chiamava io, un nomignolo a segnare Bacara dal Vatte. Cosa vuol dire Smirka? È Smicra, domandi che aiuto. No, perché deve essere un nome slavo, qualcosa del genere, vero? Io che veniva da Fiume, probabile, sarà stata... appunto, chissà cosa vuol dire. Cocoeta, cocoeona, non so. Che non sia un termine dispregiativo, invece. No, non credo. Ad ogni modo, quando che è asindata, che la ragazza amata a Casetta Rossa, che si trova a Venezia, sta Casetta Rossa, si... una specie di paesina di poco importanza e si chiama Casetta Rossa perché l'intonaco per fuori è rosso. E dov'è sta Casetta Rossa? E aveva sul Canal Grande e in mezzo due palazzi, uno è il Palazzo Corneri, uno è un altro palazzo, ma non è niente. A Venezia più che storia di questa casa è conosciuta come l'abitazione di D'Annunzio. Ah, da dove era Baccara? Ma di D'Annunzio? Sì, perché io abitavo là, come sì, sì. Che io ad aver avuto qualche casa o già era su qualche, diremo che albergo, a Giudecca. Cioè, io avevo visto un calcolo di Usea, sì. Tanto è vero che quando io sono partito per Fiume, per la cosa di Bucari, Beffa di Bucari. Ti sai da dove sei partito, Antonio? No, non mi ricordo. Partito, sai dove è la chiesa del Santissimo Redentore? Alla Giudecca. Ecco, io sei partito da Dea. Però? Coimas, esatto. Coimas, sei partito da Dea. Dalla scalinata, gradinata della chiesa del Santissimo Redentore. Guarda di quanta storia. E sei partito da Dea. Io e difatti sul campo dove che si sta accesa, che c'è un cippo, che ricorda la partenza, che di tutti i nomi dei suoi copiloti, tutto, ecco. Comunque, se non ricordo male, D'Annunzio ha preso la cattedra nel 1912, quando è morto Carducci. C'è già anche Amigonde, io povero torto, tutto quello che voleva, aveva la possibilità di farlo, Gesi. Dopo, logicamente, con la guerra ha dovuto andare anche era lui. Sempre quel genio di 50 anni fa, ne nasce uno di 50 anni. Se un auto, uno sì. Capace di autopromuoversi come pochi, praticamente. Lì nella biografia, non sai quando è morta la Baccara? No, che c'è qua per esempio il Vittoriale, che c'è una sala intitolata a Ea. Ah, bene, meno male. Sala che è sala. Luisa Baccara. Sala Luisa. Allora, è stata all'Estia nel 1973. Era un curatucci cimeli e documenti donai al pianista a Fondazione. E ora che c'è nella prima vetrina a sinistra, che se volumi con dedica di familiari di Baccara, sua sorella Iole, suo papà, sua mamma e tutte le sue cose. Dopo che sei su una vetrina, sempre con dedica, che sei una bacchetta, del direttore d'orchestra. Che gli ha regalata Toscanini. Però. Donata al direttore d'orchestra a Baccara. Dopo che sei un'altra vetrina, che c'è D'Annunzio giovane e tutto cimeli autografi, dopo che c'è altre fotografie, altre robe, e che c'è ancora un ritratto di Abeo Grando. con diploma e medaglie commemorative della Marcia De Ronchi a legionaria Luisa Baccara, perché era anche piccola italiana indomita. Ah, era, eh sì, perché eh allora sì, c'erano le piccole italiane, eh sì, eh sì, c'erano i balilli e le piccole italiane. La ragazza madre, piccola donna indomita, che ha scritto io, viva forza della città di vita. Beh, indomita, poveretta, poveretta. Ci lasciamo domare, sì, poveretta. In ogni modo, sta. Così. Aspetta, Franca, che sì, dopo ci salutiamo. E adesso ascoltiamo la quarta canzone in programma, cantata da Gigliola Cinquetti, Alle porte del sole. Eccoci di nuovo in studio per un finale proprio molto molto stretto, stretto, perché proprio una brevissima sintesi, perché ormai stiamo esaurendo il nostro tempo. La Lucrezia sì, sarà contentissima stavolta. No, speriamo, Atto, sei contenta. Ascolta, che sei una piccola roba, che sei una rivelazione che senza poerlo ea se tornata al suo antico ruolo al vittoriale dopo finito tutto. Mm-hmm. E aveva passato esiera per le stanze famose con piumini in mano, evitando di andare vicino alla stanza di Aleda, la famosa, sì, dove il suo divin poeta si intratteneva con una segreta ammiratrice battezzata la momentanea di turno. Aveva passato il riguardo del furbicchietta. Questo è essere recidivi, diciamo. Chissà che struccamento del cuore. Ascolta, Franca, il tempo purtroppo è scaduto. Bene, e noi ti ringraziamo sì, veramente di sempre cuore per queste lezioni di storia, di arte e compagnia. Hai fatto insieme un intervento stupendo. Speriamo, dai, che ecco, piano, che dai. Vedrai che anche la Lucrezia sarà contenta, sì, anche la Beatrice. E la storia, Beatrice, che salutiamo, logicamente. Sì, sentimo, benissimo. Sì, allora, Franca, Mi pensiero da voi altri, vi ringrazio come al solito, auguri. Alla prossima volta. Alla prossima, ciao Fiori. Ciao. Bene, ringraziamo la Franca e noi ormai siamo arrivati quasi in dirittura d'arrivo. La Franca ha fatto una bellissima esposizione. Ha parlato della Bacra. Allora, io come sempre ti ringrazio, Antonio. Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Un saluto affettuoso e come sempre, ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.